chiffre che ti attira sempre più dentro, sempre più al centro, sempre più in mezzo fino a che non lo distingui più il confine. Tu hai detto che questo è l'album più bello secondo te, quello più riuscito. Qual è la melodia nuova, se c'è una melodia nuova, e come sei riuscita a trovarla? Più del solito ci sono melodie rispetto ai miei dischi passati. Proprio la melodia, come proprio la devozione alla melodia. In fondo ti ritrovi delle melodie in testa. La melodia è in qualche modo quello che rimane filtrando una canzone. Se uno avesse uno strumento magico per far bollire una canzone fino a vedere cosa rimane sul fondo della pentola, probabilmente rimarrebbero delle melodie. Safari è un viaggio, verso dove? Non mi interessa molto la direzione, devo dire, mi interessa più l'espansione della direzione. In fondo l'universo si espande, non si dirige da nessuna parte, e questa cosa qui è l'immagine dell'universo che si espande, mi piace di più dell'immagine di una strada che procede verso qualche. Niente compassa, ci sono crepe, dalle crepe passa un po' di luce che si espande nell'universo. Prendi tutto quello che ti piace, ho diamanti sotto ai miei piedi, ho un oceano dentro alle vene, ognuno danza col suo demone e ogni storia finisce bene. Safari.